trovato Ortensia la sua meccanica e la solitudine eiaculatoria, la sua solitudine e la meccanica eiaculatoria. Trovate gesti mostruosi di Ortensia, la sua solitudine popolata di spettri, e gli spettri la popolano di solitudine, e il suo amore rumina, non può uscire dalla casa, e la sua luce vibra pertanto fra le mura, con la luce, con gli spettri, con l'amore che non esce di casa, con lo spettro solo dell'amore, con lo rispecchiamento dell'amore, con il disincanto, l'incanto e la frenesia. Cercate Ortensia, cercate la sua vibrante umiltà che non si sa dar pace e che non trova l'addio a nessuno e che dice addio sempre a nessuno, e da tutti solleva il cappellino estivo col gesto inusitato della pietà. Trovate Ortensia che nella sua solitudine popola il mondo civile di selvaggi, e il canto della chitarra a lei non basta più, e il condono della chitarra a lei non basta più. Trovate Ortensia che muore fra i lillà, fragile e dimenticata, sorridente e fragile fra i lillà della vallata, impietosita, impietrita. Trovate Ortensia che muore sorridendo tra i lillà della vallata. Trovatela che muore sorridere stranamente felice fra i lillà della villa della vallata che l'ignora. Popolate la sua solitudine di spettri e di fiabe, popolate la sua gioia di strana erba e strano fiore che non perde l'odore.